Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Mi stanno chiedendo del dibattito sindaco o sindaca, che è sicuramente una questione fondamentale per Roma. Permettetemi di scherzare. In realtà si è già espressa l'Accademia della Crusca dicendo che si potrà dire, si dovrà dire la sindaca. Non mi fa impazzire, ma se così dicono io mi adeguo, però chiamatemi pure Virginia. E chiamiamola pure Virginia, cara ascoltatrice, cari ascoltatori, però consapevole la nuova sindaca di Roma, che l'Accademia della Crusca, massima depositaria della correttezza della lingua italiana, dice che si dice la sindaca. Con questo iniziamo questa nuova puntata di Effetto Notte, e con, come al solito, tantissime notizie. È chiaro che oggi è un giorno particolarissimo, una sera particolare, perché è la super vigilia del voto in Gran Bretagna sulla Brexit, sull'eventuale uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea. In realtà i britannici stanno già votando in moltissimi, da tutto il giorno, in massa addirittura, dicono i giornali inglesi, anche se non ufficializzano i dati sull'affluenza. Quindi restiamo molto sul tema, poi parleremo anche di altre cose, torneremo anche sul fatto di cronaca della bambina violentata uccisa nel Beneventano, ci sono dei piccoli sviluppi, insomma le indagini comunque vanno avanti, oggi sono stati sentiti i suoi compagni, e poi molte altre cose. Quello che vi chiedo stasera, come vostre opinioni, da scrivere come sempre sulla pagina Facebook di Effetto Notte, che è sempre lì per voi giorno e notte, oppure attraverso i messaggi e i WhatsApp al 349-238-6666, è questa la domanda. Si sta votando sulla Brexit, voi come prevedete che andrà? Vinceranno quelli che vogliono lasciare l'Europa, vinceranno coloro che ci vogliono restare, e comunque sia, quali potrebbero essere le conseguenze di questo voto in un senso o nell'altro? Provate a fare qualche riflessione, vi sarete un po' interrogate in questi giorni. 349-238-6666, pagina Facebook di Effetto Notte, alla quale tra l'altro potete aderire sempre senza indugio. Intanto, come sempre, per iniziare, vediamo un po' che giornata è stata. Brexit, i britannici, secondo i giornali inglesi, stanno votando in massa il referendum. Le borse euforiche scommettono sulla permanenza in Europa. L'esito sarà comunque annunciato domattina. Politica italiana dopo le elezioni comunali. Nel PD si prepara la resa dei conti. Domani c'è la direzione generale. La sinistra Dem all'attacco. Dice mai più fiducia se non siamo convinti. E a Roma, primo giorno da sindaca per Virginia Raggi, in visita alle fosse ardeatine. Colombia, accordo di pace tra il presidente e le FARC, dopo 52 anni dichiarato il cessate il fuoco e il disarmo. Germania, un uomo spara in un cinema, ucciso durante l'irruzione della polizia, nessun ferito, solo intossicati dai lacrimogeni. Immigrazione, sono circa 5.000 i migranti tratti in salvo oggi nel corso di 43 distinte operazioni di soccorso nel canale di Sicilia coordinate dalla Guardia Costiera. Scuola, seconda prova di maturità, il classico brano di Socrate allo scientifico quiz di progettazione e geometria analitica. Televisione, nella programmazione autunnale, De Filippi ancora regina Mediaset, e alla RAI arriva Semprini. Partiamo quindi dalla trepidante attesa per l'esito del referendum in Gran Bretagna, quello della cosiddetta appunto Brexit, cioè sull'eventuale uscita o meno del Regno Unito dall'Unione Europea. Secondo i giornali britannici, vi dicevo che stanno accorrendo in massa gli elettori ai seggi elettorali, sfidando in alcune zone anche delle condizioni meteorologiche molto difficili. L'esito comunque sarà annunciato domani mattina. Le borse però sono ottimiste e scommettono sulla permanenza della Gran Bretagna nell'Unione Europea. È stata infatti una giornata questa di chiaro rialzo per tutte le borse europee. L'indice Stoxx 600, che fotografa l'andamento dei principali titoli quotati sui listini del vecchio continente, è cresciuto del 2% netto, che equivale a 192 miliardi di euro di capitalizzazione guadagnati, diciamo, in una seduta. Comunque, sia che vinca chi vuole uscire, sia che vinca chi vuole restare, ci saranno delle conseguenze. Vinca il Leave o vinca il Remain, l'Europa tra poche ore sarà comunque diversa. Ma quali sono gli scenari che si aprono? Quali i primi passi da compiere in un caso o nell'altro? Se la maggioranza dei britannici dovesse votare per rimanere in Europa, il primo appuntamento formale sarà quello del 28 e 29 giugno, dove i capi di Stato e di Governo dei 28 non dovrebbero far altro che cominciare a tradurre in leggi l'accordo di febbraio. Quello in base al quale il Premier Cameron, per convincere i suoi cittadini a votare il no alla Brexit, aveva rinegoziato le condizioni di appartenenza del suo paese all'Unione, inserendo in particolare norme meno favorevoli sul welfare agli immigrati. Molto più complicato invece lo scenario che seguirebbe a una vittoria della Brexit. Cameron dovrebbe comunicare formalmente a Bruxelles la volontà del suo paese di lasciare l'Unione e dare così il via, forse già lo stesso Consiglio europeo di fine giugno, al negoziato sui tempi e sui modi del divorzio, previsto dai trattati ma mai applicato sinora e che avverrebbe comunque in base all'articolo 50 del Trattato di Lisbona entro 2 anni. A meno di un'intesa consensuale tra il Regno Unito e i 27 all'unanimità per un rinvio. Le trattative dunque potrebbero anche durare di più. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore. Quali sono le vostre previsioni sia su come quale sarà l'esito del voto sia su cosa succederà dopo? 349-238-6666, ve lo ricordo, pagina Facebook di Effetto Notte. Intanto passiamo alla politica italiana. Domani c'è la direzione del Partito Democratico, si prevede una resa dei conti dopo il risultato, lo sappiamo, negativo delle amministrative. Una direzione nazionale del PD sempre più difficile, quella che si prepara per Matteo Renzi domani. Il ministro della Funzione Pubblica Marianna Madia vuole la testa del commissario di Roma Matteo Orfini, anche presidente del partito, che però viene difeso dal vice segretario Lorenzo Guerini. Roberto Speranza della minoranza avverte poi il governo: chiediamo una svolta, non poltrone, si deve invertire la rotta sulle questioni sociali, altrimenti non c'è fiducia che tenga. Intanto il governo segna una battuta d'arresto in Senato quando va sotto sul disegno di legge antiterrorismo su un emendamento firmato Forza Italia. Per Renato Brunetta è un pizzino di ala e di parte del nuovo centrodestra indirizzato al Premier. Intanto nei 5 Stelle si crea un mega direttorio per i sindaci. Dalla riunione della cabina di regia è escluso il dissidente Federico Pizzarotti, mentre primo giorno di Virginia Raggi da prima cittadina di Roma. In realtà si è già espressa l'Accademia della Crusca dicendo che si potrà dire, si dovrà dire la sindaca. Non mi fa impazzire, ma se così dicono io mi adeguo, però chiamatemi pure Virginia. Elisabetta Fiorito, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. E a proposito di amministrative, a nemmeno una settimana dalla rielezione è stato arrestato il sindaco di Abano Terme in Veneto, Luca Claudio, è stato fermato dalle fiamme gialle nell'ambito di quella che è stata definita la tangentopoli delle terme, perquisizioni e arresti per 2 pubblici amministratori, tra cui il sindaco e 3 imprenditori indagati a vario titolo per i reati di concussione, induzione indebita a dare e promettere utilità, corruzione e riciclaggio. Altri 18 soggetti poi sono stati indagati a piede libero nel medesimo procedimento penale. Il colonnello della Guardia di Finanza Gavino Puzzo al microfono di Anna Marino. Le indagini hanno portato praticamente a galla un vero e proprio sistema praticamente tangentizio che ha governato praticamente i 2 comuni termali della provincia praticamente di Padova, quantomeno dal 2008 per il comune di Montegrotto e dal 2011 per il comune di Abano Terme. Sistema che prevedeva il pagamento praticamente di una tangente con un percentuale variabile tra il 10 e il 20% dell'importo praticamente dei lavori e da parte praticamente di una serie di imprenditori. I lavori che andavano dalla manutenzione verde all'edilizia pubblica, all'illuminazione, al mantenimento praticamente delle strade, ai sistemi informativi e quant'altro. E adesso ritorniamo sulle notizie dall'estero. In Colombia c'è stato uno storico accordo per il cessate il fuoco ufficializzato a La Habana, Cuba, tra il presidente colombiano Santos e i rappresentanti delle FARC, cioè le forze armate rivoluzionarie in guerra da 52 anni con il governo. Informamos a la opinión pública que hemos llegado con éxito al acuerdo para el cese al fuego y hostilidades bilaterales definitivo. Potrebbe essere ricordato nei libri di storia come l'ultimo giorno di guerra in Colombia. Il conflitto che dal 1964 oppone il governo ai guerriglieri di ispirazione marxista delle FARC sembra essere arrivato al capolinea. Dopo 4 anni di trattative condotte a La Habana sotto l'egida del presidente Raúl Castro, oggi la capitale cubana ha ospitato la storica firma dell'accordo siglato tra il presidente colombiano Juan Manuel Santos e il comandante delle FARC Rodrigo Londono. Un cessate il fuoco con garanzia di disarmo totale e la promessa di una lotta congiunta ai gruppi paramilitari ribelli. Garanti dell'accordo, oltre a Castro, il segretario delle Nazioni Unite Ban Ki-moon, la presidentessa del Cile Michelle Bachelet e quello del Venezuela Nicolás Maduro. Tra i punti chiave spicca la collaborazione tra governo e guerriglieri nella battaglia contro il narcotraffico, un commercio, quello della droga, che negli ultimi anni era divenuto una delle principali fonti di finanziamento delle FARC. Emiliano Mariotti, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Adesso invece in Germania, dove ci sono stati momenti di paura, in un cinema poco distante da Francoforte, un fatto di cronaca che però nel giro di poche ore si è ridimensionato. Un episodio che dimostra lo stato di tensione che si vive in Europa. È stata solo l'azione di un uomo disturbato, così l'ha definito il ministro dell'interno dell'Anda dell'Assia, l'assalto ad una sala cinematografica di Viernheim, vicino a Francoforte. L'uomo mascherato e con ogni probabilità armato di un'arma a giocattolo è entrato nel multisala minacciando tutti e sparando colpi a salve. Terrorizzato, il pubblico è fuggito, mentre l'uomo si è barricato all'interno. Mobilitazione delle forze speciali, giunte anche da Francoforte, senza precedenti, forse troppo considerando poi l'inconsistenza della minaccia. Tutto si è risolto quando le forze speciali hanno fatto irruzione uccidendo l'uomo. Il bilancio, che pure inizialmente era sembrato molto pesante, si è risolto in nessun ferito e solo tanta paura. Non chiaro il movente, che sicuramente non è in alcun modo legato al terrorismo. Anna Rita Rambrosio, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Anche una notizia che arriva dagli Stati Uniti: la Corte Suprema degli Stati Uniti ha detto sì alle quote razziali nelle università statali. La Corte ha infatti respinto il ricorso presentato contro una legge del Texas che prevede di prendere in considerazione anche la razza per l'ammissione all'Ateneo statale, la University of Texas. Si tratta di norme, queste, delle quote razziali, per garantire alle minoranze, dagli afroamericani agli ispanici, un equo accesso agli studi universitari. Immigrazione: sono circa 5.000 i migranti tratti in salvo nella giornata di oggi nel corso di 43 distinte operazioni di soccorso nel canale di Sicilia coordinate dalla centrale operativa di Roma della Guardia Costiera. Erano a bordo di 40 gommoni, due barconi e un barchino, e tra l'altro è stato anche recuperato il cadavere di una donna. Di nuovo in Italia con la cronaca: svolta annunciata nelle indagini sulla morte di Antonio Giglio, il bimbo di 3 anni deceduto il 27 aprile 2013 al Parco Verde di Caivano, vicino Napoli, dopo essere precipitato da una finestra dell'appartamento della nonna materna. Le accuse contro di me sono false. Antonio è morto per un incidente che ancora oggi non riesco a spiegarmi. Così si è difesa l'ex compagna di Raimondo Caputo, che è l'uomo accusato di aver violentato e ucciso la piccola Fortuna Loffredo. Lei è ritenuta responsabile di aver ucciso il figlio di 3 anni, Antonio Giglio, nel Parco Verde di Caivano. Cambia da omicidio colposo a volontario, reato ipotizzato per Marianna Fabbozzi, la madre di Antonio Giglio, il bambino di 3 anni morto precipitando da un balcone dello stesso palazzo del Parco Verde di Caivano, dove ha perso la vita anche la piccola Fortuna Loffredo, e con modalità molto simili. La procura di Napoli ha riaperto il fascicolo dopo i racconti delle 3 figlie della donna sulla morte di Fortuna e sulle violenze subite, che hanno portato gli inquirenti di un'altra procura, quella di Napoli Nord, ad accusare di omicidio e abusi sessuali Raimondo Caputo, compagno di Marianna Fabbozzi. L'uomo è stato interrogato sulla morte del bambino e ha sostanzialmente accusato la compagna. Ascoltiamo l'avvocato del padre di Antonio Giglio, Antonio Pisani. Dopo l'interrogatorio di Caputo e dopo le testimonianze raccolte con le indagini difensive degli avvocati, la procura ha deciso di interrogare nuovamente la Fabbozzi sulla morte del figlio. Sicuramente il compagno dovrà rispondere di favoreggiamento qualora si scopre che il piccolo Antonio non è morto per una caduta accidentale, e ci saranno più soggetti che hanno coperto questo delitto. Laura Vigiano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli. E ora la vicenda di Maria, la bimba di 9 anni violentata e uccisa a San Salvatore Telesino, in provincia di Benevento. Oggi gli inquirenti hanno sentito i compagni di classe della bambina nel tentativo di scoprire chi abbia ucciso e abusato della piccola. Nel frattempo il principale indagato resta Daniel, il 21enne rumeno amico della famiglia della bambina, e di questo poi parleremo nel corso di Effetto Notte. Il terremoto tra Liguria e Toscana: la protezione civile della regione Liguria ha confermato che non si è registrato per fortuna nessun danno a persone o cose per il terremoto di magnitudo 4 registrato nella provincia di La Spezia. E poi oggi c'è stata la seconda prova di maturità per quanto riguarda la scuola, 500.000 studenti alle prese con questa prova, che era quella specifica per ogni indirizzo. Temi molto vicini alla realtà quotidiana, aveva anticipato nei giorni scorsi la ministra dell'istruzione Giannini, e così è stato. I ragazzi del classico hanno tradotto il greco Isocrate, che non usciva dal 58, facile e attuale, secondo il grecista Giuseppe Zanetto. Isocrate non è considerato in linea di massimo uno scrittore difficile, perché ha questo stile molto regolare. Un collegamento con l'attualità forse si può trovare soprattutto in quel passaggio in cui spiega che un'organizzazione politica governata con trasparenza, onestà, alla fine è governata in modo migliore. Allo scientifico, matematica con un problema pratico: progettare un serbatoio di gasolio per un condominio. La prova di inglese del linguistico, un articolo del quotidiano britannico The Guardian sul calo demografico in Europa. Ai ragazzi dell'artistico è stato chiesto di ideare un asilo o una palestra, a seconda del loro indirizzo di studi. Gli esami continuano. Il prossimo lunedì, di nuovo tutti a scuola per la terza prova. Dania Di Bitonto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E adesso una notizia che di scienza molto particolare. Secondo le conclusioni dello studio del microbiologo Peter Nobel dell'Università di Washington a Seattle, nel DNA la vita prosegue anche dopo la morte, almeno per altri 4 giorni. È stato osservato nei topi e nei pesci, nei quali alcuni geni sembrano continuare a essere attivi per molte ore dopo la morte. La scoperta potrebbe migliorare le tecniche per conservare gli organi destinati ai trapianti. E per chiudere parliamo di televisione. Le carte si sveleranno martedì per la RAI e il 4 luglio per Mediaset con le presentazioni dei palinsesti, ma secondo le indiscrezioni sulla prossima stagione TV ormai le indiscrezioni sulla prossima stagione sono molte. Tante voci e qualche certezza sui prossimi palinsesti TV. La prima notizia confermata oggi da Sky: in arrivo Gianluca Semprini. Per lui, annuncia il direttore di Rai 3 Daria Bignardi, un nuovo talk al posto di Ballarò. In Rai arriverebbe anche Walter Veltroni come autore di 2 programmi, un varietà per Rai 1 e un altro per Rai Cultura. A Giuliano Ferrara pare sia stato proposto di realizzare un programma per la seconda serata di Rai 2 che vedrebbe alternarsi giornalisti come Pietrangelo Buttafuoco, Mario Secchi e Francesco Verderami. Circolano anche voci sul possibile ritorno di Michele Santoro come autore di docufiction. E Mediaset? Dopo la notizia che Nicola Porro condurrà 2 appuntamenti settimanali in seconda serata su Canale 5, oggi una riconferma che pesa. Rinnovata l'esclusiva con Maria De Filippi per i prossimi 5 anni. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Bene, direi che il riassunto della giornata è completo. Intanto vorrei dare uno sguardo, prima di aggiornare chi sta viaggiando, ai vostri messaggi stasera, naturalmente, sulla Brexit. Come pensate che andrà a finire, sia sull'esito del voto, che tra l'altro sarà annunciato domani mattina, sia sulle possibili conseguenze in un senso o nell'altro. Su WhatsApp potete mandare i messaggi WhatsApp o SMS al 349-238-6666, oppure comodamente sulla pagina Facebook di Effetto Note, che è sempre lì per voi. Per esempio Stefano da Rimini scrive: voglio un'Europa più integrata, una federazione non più di stati sovrani ma di regioni simile a quella degli Stati Uniti d'America, anche se lì poi sono degli stati in realtà, Stefano, quelli. Silvano dice: viva la Brexit, da domani gli inglesi saranno liberi, poi tocca all'Olanda, poi spero a noi. Si parla addirittura di Frexit al momento, anche di Francia, insomma queste sono ipotesi così che potrebbero anche essere fantascientifiche, vedremo come andrà. Poi Sergio da Milano: rimarranno in Europa, li hanno impauriti talmente tanto da evitare l'effetto domino con altri paesi europei. Continuate con le vostre riflessioni, ci sentiamo giusto gli aggiornamenti per chi viaggia, ritorniamo tra pochissimo. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di nuovo insieme Roberta Giordano con voi, i vostri messaggi che continuano ad arrivare sulla Brexit. Vi ricordo che tra l'altro poi dalle 22 ci sarà uno speciale appunto sulla Brexit che potrete seguire fino a tardi, con tante analisi per capire appunto cosa potrebbe succedere, chi sono quelli che preferiscono appunto, preferirebbero lasciare l'Unione Europea e quelli che invece vogliono restare, le possibili conseguenze. Però intanto chiedo a voi quali sono le vostre previsioni. Dice Stefano da Rimini: le borse, i bookmakers, gli scommettitori la sanno lunga e quindi sono quasi sicuro che l'Inghilterra rimarrà in Europa, spero però con una percentuale molto alta del sì all'Europa. Solo in quest'ultimo caso, infatti, a mio avviso, questo voto potrebbe essere d'aiuto all'Europa. In caso di un remain, cioè di una permanenza striminzita, ci sarebbe invece un sacco di problemi. Quindi Stefano, fa anche una questione di percentuali, cioè, se proprio una vittoria chiara, netta, allora ha un senso, altrimenti i problemi rimangono. Effettivamente, diciamo, una lettura piuttosto lucida. 349-238-6666 per i vostri messaggi, oppure pagina Facebook di Effetto Notte. Delego un altro di messaggio, ecco, andiamo proprio sulla pagina Facebook. Per esempio Elena dice: sembrerebbe che vincano coloro che vogliono restare, spero sia così, non sono in grado di dire cosa potrà cambiare veramente in un caso o nell'altro. Comunque la percezione è che dopo questo voto niente sarà più come prima, si potrà mettere in discussione l'appartenenza nel bene e nel male. Queste le vostre opinioni, vi ricordo appunto poi lo speciale dopo Effetto Notte. Intanto però vi ricordo anche le notizie principali e poi passiamo alla Brexit. In Gran Bretagna il voto sull'Europa è in corso ancora, con le borse che scommettono sul Remain, cioè sul fatto che rimarrà in Europa. Il PD alla resa dei conti per quanto riguarda la politica nostrana, domani ci sarà la direzione PD, la sinistra Dem detta le condizioni e dice: mai più fiducia se non siamo convinti. Oggi Virginia Raggi, sindaca di Roma, commossa, si insedia in Campidoglio, la giunta l'annuncia, dice ci sarà il 7 luglio, gli assessori non dovranno firmare il codice etico. Caivano svolta nel caso del piccolo Antonio. Antonio, omicidio, accusa di omicidio per la mamma. Gli investigatori invece sentono i compagni di Maria, la bambina violentata e uccisa nel Beneventano, e di questo parleremo poi qui effetto notte. Tangentopoli alle Terme, è arrestato il sindaco appena rieletto di Abano Terme e manette per altri 5. E poi in Germania spara nel cinema, ucciso dalla polizia a Virenheim, si barrica con gli ostaggi, però per fortuna sono tutti illesi. E poi questa ricerca scientifica, abbiamo brevemente parlato, c'è vita dopo la morte, almeno per il DNA, i geni sarebbero attivi per altri 4 giorni, questo potrebbe rendere i trapianti più facili. Quindi, come dicevamo, è arrivato il fatidico giorno oggi, infatti tuttora si sta votando in Gran Bretagna il referendum sulla Brexit, cioè l'eventuale uscita o meno del Regno Unito dall'Unione Europea. Cosa decideranno i britannici, che sono chiamati 45 milioni a votare? Sembra, secondo i giornali inglesi, che stiano andando molto partecipativi. Insomma, quali potrebbero essere le conseguenze? No? Sono tante le domande che ci si fa, conseguenze sulla Gran Bretagna stessa, sull'Europa, sui mercati finanziari, ma anche sul resto del mondo, dato che si sono moltiplicati anche nelle ultime ore gli appelli all'unità del continente anche da parte di Stati Uniti e Cina. La stampa britannica scrive che ci sono lunghe code di elettori fuori dai seggi, questo lo scrive il Guardian, mentre il Telegraph dice i seggi sono stati sommersi dai britannici che, vi dicevo, hanno sfidato anche condizioni climatiche e meteorologiche molto difficili, addirittura qualcuno ha guadato i corsi d'acqua, gli stagni, pur di andare a votare. E insomma, le borse, l'avete sentito, i mercati si sono dimostrati ottimisti con dei netti rialzi delle borse europee. Ne parliamo con il nostro Sergio Nava, inviato a Londra. Ciao Sergio. Ciao Roberta, che notte Roberta, eh? Che notte, che tu poi... Che notte, pensavo, volevo dedicare un pensiero, anche se non è molto popolare, ma ai banchieri d'affari della City che a quanto pare hanno affittato camere d'albergo, perché nel caso peggiore, pensate, fanno le valigie, dovranno passare tutta, no, beh, dovranno passare l'intera notte a considerare i loro clienti. Leggevo poco fa sul London Evening Standard, il quotidiano della sera, nel caso peggiore sarà una notte da tregenda per loro. E quindi pensate, quando parliamo di Brexit, a tutto quello che sta succedendo e sta per succedere nelle prossime ore, in caso di un'uscita dall'Unione Europea, a quante persone dovranno attendere riunioni di emergenza, riunioni di crisi a livello politico, a livello finanziario. È una notte veramente, veramente cruciale. E poi tu la seguirai anche nello speciale che ci sarà dopo effetto notte. Senti, insieme a Gigi Donelli, ma l'ultimo sondaggio darebbe 52% per restare in Europa e al 48% invece l'uscita dall'Europa. Però al di là di questo, leggevo un'analisi in un'intervista che ha rilasciato Prodi a Radio Radicale. Diceva, sì, a me dispiace se dovesse uscire la Gran Bretagna, spero che rimanga. Però dice, del resto, la Gran Bretagna si è ritagliata tante differenze rispetto agli altri membri dell'Unione Europea, no? Da sembrare già mezza fuori, dice, dal sistema. Niente Schengen, niente libera circolazione di manodopera, niente euro, niente politica sociale comune. Quindi Prodi ha detto, mi auguro che si possa festeggiare la non uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea, ma ha aggiunto, mi auguro anche che un giorno si possa festeggiare l'entrata della Gran Bretagna nell'Europa. Per dire, insomma, che con un piede fuori e un piede dentro già adesso. Guarda, Roberta, secondo me Prodi c'entra un punto importante, nel senso che l'anomalia britannica in Europa comunque è sempre stata sotto riflettori. La Gran Bretagna ha sempre considerato l'Europa, o soprattutto i conservatori britannici, quelli con cui è entrata, e la Thatcher di battaglie ne ha fatte con Bruxelles, ha sempre considerato l'Europa come uno dei tanti club a cui è iscritta, no? Come la NATO ad esempio, o il Consiglio d'Europa, magari con un po', un occhio un po' più d'attenzione viste le implicazioni, però non c'è mai stato un matrimonio d'amore con l'Europa, è sempre stato più un matrimonio di interesse. E tutto sommato, se vogliamo, i nodi stanno venendo al pettine di questo matrimonio di interesse. La Gran Bretagna ha sempre osteggiato un'integrazione politica più forte, no? Quindi paradossalmente ci sono alcuni francesi che quasi sperano che la Gran Bretagna esca, perché vedono in questo la possibilità di poter procedere a un'integrazione più forte, non avendo più l'ostacolo di Londra in mezzo. Personalmente penso che comunque sarebbe una perdita pesante per l'Europa non avere la Gran Bretagna, però c'è anche il lato, se vogliamo, più oscuro di quello che è stata la storia britannica in Europa, che effettivamente va considerato. È sempre stato un freno più che un acceleratore all'integrazione. Ronda ha sempre visto un'Europa più integrata come un pericolo, e se vogliamo, e chiudo anche un po' la riflessione con un'ironia, no? Il tema dell'immigrazione, il tema che ha così sospinto dai favorevoli all'uscita dall'Unione Europea, perché dicono ci stanno invadendo, stanno arrivando troppi immigrati, non dimentichiamo che l'allargamento del 2004 fu fortemente voluto dalla Gran Bretagna proprio per annacquare una maggiore integrazione politica dell'Europa, perché immettendo 10 nuovi stati sapeva che avrebbe annacquato il disegno di unione ancora più stretta, e quell'ingresso di 10 paesi accelerato anche su desiderio britannico ora si è ritorto contro, e nel dibattito entra il problema di così tanti immigrati che arrivano dall'est Europa. Pensiamo ai paradossi della storia. Sergio, ma quando arrivano i primi risultati, gli exit poll perlomeno, no? Le dichiarazioni di voto? Allora, il sistema in questo caso è un po' complicato, nel senso che l'anno scorso, se ti ricordi Roberto, eravamo proprio qui dove mi trovo adesso, alla London School of Economics, per le elezioni britanniche che vinse Cameron, sì. Arrivarono gli exit poll come ogni elezione. Qui ufficialmente la BBC ha detto non ne farà, le private come Sky News non ne hanno parlato, parlano di speciali ma non hanno esplicitato exit poll. Potrebbero esserci, però al momento nessuno ha annunciato, quindi in mancanza di exit poll dovremo aspettare due cose, fondamentalmente l'affluenza che arriverà insomma nelle ore successive, sarà interessante vedere se c'è stata effettivamente un'alta affluenza, vedere i mercati, vedere come chiude Wall Street, come aprono le asiatiche, perché gli hedge fund i loro sondaggi li hanno fatti, e quindi cominceranno un po' vedremo dei movimenti sulle borse, e poi verso l'una e mezza, purtroppo a speciale concluso, avremo probabilmente il primo risultato da Sunderland, storicamente la circoscrizione a cui arrivano sempre i primi risultati anche nelle elezioni nazionali, e poi sarà una lunga notte. Il modello è molto simile a quello delle elezioni nazionali britanniche, ogni circoscrizione dichiara il risultato, e quindi ora dopo ora, minuto dopo minuto, arriveranno piano piano i risultati di 382 circoscrizioni e tutti lì a fare le somme. Capiremo soprattutto dal nord e dal centro dell'Inghilterra, aree che dovrebbero essere molto, molto più sbilanciate sul leave, se dove stiamo andando. Se il leave sfonda clamorosamente nel cuore della notte, allora preparatevi, domani avremo un paese in meno in Europa. Se invece il remain a metà notte tiene o addirittura in vantaggio, tutto dovrebbe andare contro la Brexit e quindi per una permanenza. Per chi voglia fare le ore piccole e si vuole prendere diciamo un giorno di vacanza domani e fare un lungo weekend, insomma, potrebbe essere più appassionante di una partita di calcio. Ecco, quindi per appassionarvi poi seguite, ancora ci sarà Sergio Nava nello speciale, poi dopo Effetto Notte condotto da Gigi Donelli e Anna Migliorati. Grazie Sergio Nava da Londra. Grazie. Ciao Sergio. Ciao, ciao. Tra l'altro qui si ripropone in modo diverso, no? Il fatto dell'exit, dell'uscire. Vi ricordate per quanti mesi abbiamo parlato della possibilità della Grexit, della Grecia che potesse rimanere fuori dall'Europa? Adesso si parla di Brexit, ma chiaramente su piani molto diversi. Però ritorna questo neologismo, e addirittura qualcuno parlava di Frexit e di altri, insomma, stati che potrebbero uscire. Ma per il momento non mi sembra che ci siano queste tensioni centrifughe. Invece vorrei farvi sentire adesso, nello spazio europeo, alcune opinioni di europarlamentari sulla Brexit. U-Zone, incontro con gli europarlamentari. Sì, no, va bene qualunque decisione. Sono le tre posizioni degli europarlamentari italiani sulla permanenza o meno dell'Inghilterra in Europa. Ad un'ora quasi dalla chiusura dei seggi, tra ragioni economiche e politiche, tra incertezza e preoccupazione per come si sveglierà domani l'Europa, socialisti e democratici con il Partito Popolare Europeo dicono che l'Europa ha bisogno di Londra e Londra dell'Europa. Gli esponenti dei 5 Stelle rispetteranno l'esito qualunque sia, mentre quelli della Lega Nord si augurano che l'Inghilterra esca dall'Europa per dare il via ad un nuovo disegno comunitario. Sentiamo il vicepresidente dell'Europarlamento Antonio Tajani del gruppo del PPE. L'Unione è peggiore senza Londra, noi abbiamo bisogno della Gran Bretagna, un paese troppo importante per noi. Perderebbe grandi opportunità economiche, sarebbe per la sua politica finanziaria un disastro. Ora la parola passa a Gianni Pittella, presidente del gruppo dei socialisti democratici. Brexit ovviamente è un pericolo ed è una scelta che deve fare il popolo della Gran Bretagna, i britannici. Io mi auguro sinceramente, nell'interesse del Regno Unito, nell'interesse dell'Unione Europea, scelgano il Brexit, non il Brexit. Elly Schlein, gruppo dei socialisti democratici. Noi siamo la prima generazione che è nata e cresciuta europea, che non può permettersi di dare per scontati i benefici che questo ci ha portato, viaggiare senza passaporti per un intero continente, essere aiutati a studiare, insomma ci sentiamo europei. Dobbiamo però essere consapevoli di ciò che manca all'Europa e che serve maggiore integrazione, non un passo indietro di fronte alle sfide globali. Simona Bonafè, Partito Democratico. La decisione che verrà presa dai britannici il 23 giugno avrà delle ricadute sia di natura politica che economica e purtroppo sia sulla Gran Bretagna che sull'Unione Europea. L'unico dato certo, mi permettete il gioco di parole, è l'incertezza, e lo dimostrano appunto la volatilità dei mercati, gli listini al ribasso, la svalutazione della sterlina, e vediamo cosa succederà. Concedetemi un altro gioco di parole, cioè se il Regno Unito dovesse optare per la Brexit servirà invece più Europa, certo un'Europa più efficace, basata su integrazione più stretta e reale, e per quanto forte e sconvolgente, l'impatto di una possibile Brexit non dovrà rappresentare l'ostacolo per una maggiore integrazione europea. Marco Zanni, Movimento 5 Stelle. Con questo accordo si mette una pietra tombale su quello che è il progetto di un'Europa politicamente unita. Si crea un precedente e lo si scrive su carta, questa cosa è molto interessante, che in un futuro potrà sempre essere utilizzato anche da qualche altro Stato membro. Lorenzo Fontana, vice segretario della Lega Nord. Ma sia il Brexit, perché intanto verrebbe data la possibilità finalmente democraticamente a un popolo di decidere se rimanere all'interno o meno dell'Unione Europea, sarebbe un po' riportare la democrazia in un contesto che purtroppo forse la democrazia si è dimenticata, e forse sarebbe anche un segnale a questa Unione Europea che così come sta andando avanti non va, bisogna assolutamente cambiare, riformare, perché la gabbia dell'Unione Europea si sta distruggendo da sola. U-Zone. Incontro con gli europarlamentari. In collaborazione con Euronet Plus. Quindi sempre sulla Brexit avete sentito alcune opinioni degli europarlamentari, invece le vostre adesso di opinioni sulla pagina Facebook di Effetto Notte al 349-238-6666, questo è il numero per gli sms e i whatsapp. E per esempio Domenico dalla provincia di Lodi scrive: la Gran Bretagna di fatto non si è mai sentita europea, basti pensare che non ha aderito all'euro, secondo me escono e fanno bene. Gabriele D'Ariccione: temo la Remain, cioè la permanenza, ed auspico il Leave, cioè che lasci. Questa che noi definiamo Unione Europea è solo un accordo tra banchieri senza traccia di rispetto per i cittadini. Quanti hanno potuto scegliere se aderire o no all'abdicazione alla sovranità monetaria a favore di una banca privata che non rende conto a nessuno? Meglio ripartire dai cittadini, scrive Gabriele. Poi Silvano: l'Inghilterra rimarrà in Europa, troppa paura per votare in uscita, la Gran Bretagna vince comunque visto le particolari condizioni trattate con l'Unione Europea. Bene, adesso ci prendiamo una breve pausa di ricreazione e voi continuate con le vostre opinioni anche sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte siete al posto giusto, nel momento giusto, e anche con la giusta conduttrice, da qualsiasi parte del mondo stiate ascoltando, e noi guardiamo, tutto il mondo guarda con una certa tensione verso la Gran Bretagna, perché sapete che siamo alla super vigilia, cioè nel senso si sta votando in realtà, si avranno poi i risultati. Tutto il giorno i britannici sono andati in gran numero, i giornali parlano di code infinite ai seggi elettorali per votare questo referendum e decidere se vogliono o meno restare in Unione Europea. Stanno votando la cosiddetta Brexit, appunto, che sarebbe l'uscita della Gran Bretagna oppure no. I vostri messaggi su questo argomento, cioè quali sono le vostre previsioni di voto, vi chiedo ancora prima di passare al prossimo argomento, e anche che cosa pensate che possa comunque succedere dopo. Qualcuno per esempio sta dicendo che in ogni caso o potrebbe essere una spinta questa a cambiare l'Europa, o che comunque le cose non saranno più come prima nei rapporti tra Gran Bretagna e Unione Europea. Questi sono i vostri giudizi, i vostri commenti sulla pagina Facebook Facebook di Effetto Notte oppure con gli sms WhatsApp al 349-238-6666. Per esempio Mimmo scrive: l'Europa del manifesto di Ventotene, quello del 1941 di Altero Spinelli e altri compagni, poi dice: non era questa Europa, quella di quel manifesto era un sogno di unità dei popoli, non uno pseudo Europa comandata da banche attraverso una moneta non voluta da nessuno che ha portato alla fame milioni di persone. Spero che gli inglesi siano furbi e facciano da apripista per una vera Europa basata sull'unità dei popoli, scrive Mimmo. Poi Anselmo dice: io penso che l'Inghilterra esca fuori dall'Europa, non ho idea se converrebbe anche l'Italia, tuttavia non mi sento europeo e non riesco a vederne dei reali vantaggi, scrive con tanti punti esclamativi. Sergio da Napoli: fanno benissimo gli inglesi a uscire da questa falsa Europa che tanto ci ha fatto soffrire. Quindi anche diversi messaggi, insomma, un po' disamorati, disincantati. Adesso però vi ricordo le notizie principali prima di passare al prossimo tema. Brexit: i britannici, secondo i giornali inglesi, stanno votando in massa il referendum, le borse euforiche scommettono sulla permanenza in Europa. Politica italiana: dopo le elezioni comunali nel PD si prepara la resa dei conti, domani c'è la direzione generale, la sinistra Dem all'attacco, mai più fiducia se non siamo convinti. E a Roma, primo giorno da sindaca per Virginia Raggi, in visita alle fosse ardeatine. Colombia: accordo di pace tra il presidente e le FARC, dopo 52 anni dichiarato il cessate il fuoco e il disarmo. Germania: un uomo spara in un cinema, ucciso durante l'irruzione della polizia, nessun ferito, solo intossicati dai lacrimogeni. Immigrazione: sono circa 5.000 i migranti tratti in salvo oggi nel corso di 43 distinte operazioni di soccorso nel canale di Sicilia coordinate dalla Guardia Costiera. Scuola: seconda prova di maturità, al classico brano di Isocrate, allo scientifico quiz di progettazione e geometria analitica. TV: nella programmazione autunnale De Filippi ancora regina Mediaset e alla RAI arriva Semprini. E ritorniamo invece sul caso adesso della bimba di 9 anni violentata e uccisa a San Salvatore Telesino, vicino Benevento, il cui corpicino, vi ricordate, senza vita e senza vestiti, è stato rinvenuto domenica sera in una piscina di una struttura per ricevimenti. Per ora l'unico indagato per il delitto è un cittadino romeno di 21 anni, si chiama Daniel, che sarebbe stato l'ultimo a essere visto in compagnia della bambina, anche se a San Salvatore Telesino in molti credono nella sua innocenza. Nel piccolo paese sannita, dove tutti si conoscono, in molti credono che sia necessario seguire altre piste. Oggi ha parlato con una nota anche il legale della famiglia della bambina, famiglia romena, e ha detto che la chiave tra le 20 e le 21 sarebbe quella di svolta, cioè di capire dove era la bambina e con chi era quella sera tra le 20 e le 21, e dice che forse potrebbe essere opera questo delitto di più persone. Oggi fra l'altro sono stati sentiti i compagni di classe di Maria. Ne parliamo con Franco Buononato, responsabile della redazione di Benevento del Mattino. Buonasera, bentornato Franco. Buonasera, buonasera a voi, a tutti. Sì, la svolta sembrava vicina, si aveva subito il giorno dopo questa tremenda vicenda un indagato, un sospettato, uno che aveva preso la bambina e aveva fatto un giro anche tortuoso e poi per riportarla poi lì a casa nei pressi della chiesa. Invece ha smontato lui e i suoi legali tutti quegli indizi, che stavano contro di lui. Anche le telecamere sembrano dargli ragione, c'è gente che lo ha visto in luoghi diversi proprio a quell'ora, quindi questo ragazzo Daniel, rumeno anche lui, sembra essere uscito di scena. Se si allarga quindi il ventaglio dei sospettati, in particolare spunterebbe un altro uomo. Noi non sappiamo ancora chi, come, dove, quando e perché si è fatta questa ipotesi, ma un altro uomo in questa vicenda è chiaro che ci ha messo piede. Stamattina, come tu dicevi, sono stati ascoltati i bambini, i compagni, le amiche, gli amici della piccola Maria, nell'istituto comprensivo, ovviamente in una zona protetta, ma ci sono stati poi delle scene, perché tutti sanno cosa è avvenuto. A 10 anni, a 11 anni, la TV la seguono tutti quanti e ci sono state scene di forte commozione in quella situazione. Ci stanno i messaggi che ancora continuano a giungere lì sul luogo dove è stata vista per l'ultima volta, nei pressi del ristorante dove c'è questa piscinetta maledetta dove lei ha perso la vita. un mistero in una realtà, lo voglio dire, San Salvatore Telesino, infatti il sindaco stamattina si è un po' inalberato quando hanno fatto il confronto, il raffronto con Caivano. San Salvatore Telesino è una realtà agricola, vigneti, agriturismo, gente diciamo dedita al lavoro, mai casi di questo tipo. Ora è venuta questa tragedia e quindi lì è tutta la città. Domani sera ci sarà una grossa, una fiaccolata, una veglia di preghiera per ricordare questa bambina che, benché ortodossa di religione, era integrata con tutte le compagne di religione cattolica e anche lei serviva la messa la domenica. Quindi una vicenda che veramente ha spaccato il cuore e l'anima a questa realtà dove vivono centinaia e centinaia di altri immigrati, soprattutto rumeni. Franco, che mi pare che la comunità sia integrata, appunto, come dicevi, questa comunità romena, sì, ma hai detto che forse si potrebbero spostare le indagini, nel senso che potrebbe davvero essere innocente, anche se ovviamente sono solo indiscrezioni, dicevi questo al momento. Ragazzo, Daniel, così lui con fermezza ha sempre negato qualsiasi coinvolgimento, ha sempre detto di non aver fatto niente di male a Maria, che considerava una sorella. Poi i riscontri della procura, e qui ci stanno investigatori, lo devo dire, di primo livello, insomma hanno visto che lui almeno così diceva la verità. Ci sta qualche telecamera, queste poi sono sempre notizie che trapelano, però ci stanno anche delle telecamere che a quell'ora insomma è stato ripreso in altro luogo, e gente che ha visto che lui poi ha lasciato la bambina. Si fa l'ipotesi, ecco, dagli uffici giudiziari trapela questo altro uomo, noi non sappiamo ancora chi. Per questo motivo ieri notte noi abbiamo visto che la famiglia è stata almeno 12-13 ore lì nella caserma dei Carabinieri. Sono stati interrogati lungamente i genitori, sì, di Maria, no? I genitori, e poi anche un'altra volta Daniel, che è rientrato ed è stato ascoltato per altre 3-4 ore. Oggi diciamo relativa calma, però lì la preoccupazione è tanta, perché se Daniel è innocente, come dice, e come diciamo le prove sono a suo favore, significa che c'è un assassino libero che circola per San Salvatore Telesino, che potrebbe farla franca. Noi speriamo di no, ma potrebbe farla. Senti, franca. Per quanto riguarda l'autopsia, Franco, della povera bambina. Ma l'autopsia bisogna ancora aspettare, però l'autopsia conferma che la bambina dovrebbe confermare, ecco, i risultati ufficiali non ci sono, ma qualcosa di brutto a questa bambina è capitato. Questo era chiaro, era per capire appunto se già si avevano degli indizi o qualcosa, per cercare la persona. Sono le notizie che trapelano qualcosa di brutto a questa piccola, graffi e le cose che hanno fatto riferimenti, pure noi abbiamo scritto un po' tutti, qualcosa di brutto, di veramente molto forte sarebbe avvenuto per questa bambina di 10 anni che, per la verità, anche nel fisico era una piccola, una ragazza bambina, che appunto si stava affacciando proprio. No, grazie. Veramente una cosa, sì. Una cosa terribile. Franco Bononato, ti ringrazio, e poi se ci saranno sviluppi ci riaggiorneremo. Grazie allora. A voi. Grazie siamo allora. Grazie Franco Bononato del Mattino. Viabilità. Effetto notte. Le notizie in 60 minuti. Notizie, argomenti, approfondimenti e tanti vostri messaggi anche che stanno arrivando sulla Brexit, su possibili previsioni, sulle vostre riflessioni su questo voto ancora in corso in Gran Bretagna e anche sulle possibili conseguenze, ripercussioni poi sulla Gran Bretagna, sull'Unione Europea, sui mercati finanziari, sul resto del mondo. Alberto, alla pagina Facebook di Effetto Notte, scrive così: secondo me non succederà un bel nulla, troppi interessi di troppe nazioni fanno talmente da pesi e contrapesi che ogni azione viene annullata da altre, per cui eventuali effetti di qualsiasi scelta verranno neutralizzati, sono troppi gli interessi in ballo, dice Alberto. Poi Claudio, Brexit, dice: quanto disamore per l'Europa, se l'Europa è quella che stabilisce la lunghezza dei cetrioli è normale essere disamorati, ma se quella della pace e della solidarietà allora c'è bisogno di più Europa, non tutto il male viene per nuocere, speriamo si apra una nuova era. Insomma, per qualcuno, in effetti, anche per gli analisti, non solo per voi ascoltatori, in ogni caso, che la Gran Bretagna restasse o non restasse in Europa, non sarà più come prima, qualcosa dovrà per forza cambiare. E poi altri vostri messaggi. C'è per esempio questo di Luciano che dice: io penso che l'Inghilterra esca fuori dall'Europa, non ho idea se converrebbe anche l'Italia, tuttavia non mi sento europeo. No, questo era di prima, dicevo. Luciano dice: io al posto dei vertici mi farei alcune domande, una su tutte, ma stiamo andando nella giusta direzione? Perché dopo la Gran Bretagna ci possono essere altri che vogliono andarsene? Taulant scrive invece: speriamo che vinca Brexit e poi prossimamente un referendum italiano per uscire anche dall'Italia, per uscire anche l'Italia. 80% degli italiani sono per l'uscita dall'Unione Europea. Questo 80%, Taulant, mi sembra un po' eccessivo come percentuale, ce ne saranno alcuni che vogliono uscire dall'Unione Europea, 80% mi sembra un po' troppo. Ma adesso ci occupiamo tra poco di altro, mentre vi ricordo quali sono le notizie più importanti della giornata. Appunto, il voto in corso in Gran Bretagna, il referendum sul Brexit, con le borse che scommettono sul Remain, sul fatto che permanga in Europa, e che appunto oggi c'è stata una crescita netta. Le borse europee, Milano ha chiuso per esempio a più 3,7%. Poi, per quanto riguarda la politica italiana, il PD è la resa dei conti, domani c'è la direzione, la sinistra Dem, la minoranza Dem detta le condizioni e dice: mai più fiducia se non siamo convinti. Poi Virginia Raggi commossa oggi che si è insediata in Campidoglio, suo primo giorno da sindaca, dice che la giunta arriverà il 7 luglio e che gli assessori non dovranno firmare il codice etico. Caivano, svolta nel caso del piccolo Antonio Giglio, la madre è accusata di omicidio. Intanto abbiamo appena parlato invece degli sviluppi sul caso della bambina di 9 anni, Maria, violentata e uccisa vicino Benevento. Gli investigatori hanno sentito i compagni e si stanno seguendo anche altre piste, l'avete sentito prima dal cronista del Mattino. E poi ancora fra le notizie, il terrore in Germania, un uomo è entrato in un cinema, ha sparato, poi è stato ucciso dalla polizia a Wierenheim e si è barricato con degli ostaggi, però sono tutti illesi. E questa invece, questo studio, queste conclusioni di uno studio microbiologico degli Stati Uniti, secondo il quale ci sarebbe vita dopo la morte, almeno per quanto riguarda il DNA, i geni sarebbero attivi per 4 giorni. Ma io che considerazioni vi devo fare sulla Spagna? Che dico, sono scarsi? Fatemi capire. Se volete sentirvi dire questo, cioè, stiamo parlando di una delle squadre più forti al mondo. Cioè, di che stiamo parlando? Lo sappiamo. Detto questo, c'è il campo, ecco. Poi il campo dovrà parlare, ma affrontiamo una delle squadre più forti al mondo, punto. A meno che io non sono un visionario e scendo dalla luna e penso che la Spagna sia uno sparring partner, ecco. E io che considerazione devo fare la Spagna? Dario Ricci, tu che considerazione devi fare lì dalla Francia sulla Spagna, scusa? Beh, cara Roberta, non si può dar torto al nostro CT, Antonio Conte, che abbiamo appena sentito. La Spagna è una delle squadre più forti al mondo. Ci è capitata la Spagna in questi ottavi di finale lunedì alle 18 a Parigi Saint-Denis. Si può discutere quanto vogliamo sul fatto che questo europeo c'ha un tabellone molto sbilanciato tra, che da un lato mette un po' tutte le piccole e dall'altro tutte le big, però la Spagna ci ha toccato e con quella dobbiamo fare i conti. Abbiamo perso pure l'ultima finale, quindi diciamo quantomeno una certa voglia di rivalsa dovrebbe essere uno stimolo in più per i nostri azzurri, ecco. Però su questo non si può dar torto al nostro CT, cara Roberta. Dario, però allora ieri intanto contro l'Irlanda ha perso 0-1 l'Italia, no? Qualcuno dice vabbè, sì, insomma, tanto come ci ricordavi anche tu ieri, era irrilevante il risultato perché comunque ininfluente, in ogni caso si andava agli ottavi. Ma secondo te andava giocata meglio quella partita, o comunque, visto che già l'Italia aveva battuto il Belgio e la Svezia, insomma, si poteva anche tra virgolette riposare, rilassare? Ma in realtà Conte ha da un lato fatto un ampio turnover, come abbiamo detto, però anche lui stesso sovraccaricato di molti significati questa partita, che questi significati poi non li aveva, no? Perché l'ha voluta utilizzare come banco di prova per tutti quei giocatori che non sono titolari, perché a lui non piace questa espressione, ma insomma ci sono le riserve e quelle sono state provate. Il problema è che poche di queste riserve si sono dimostrate già pronte per eventualmente dar una mano ai titolari, e la Spagna è dietro l'angolo perché ormai ci tocca lunedì, quindi ecco, in questo senso l'esperimento non ha dato le risposte sperate, ecco, questo è il problema. Senti Dario, tu sei ancora a Montpellier adesso, dove sono sì, sì, nazionale? Sono, mi trovo in questo piccolo paesino vicino a Montpellier, si chiama Perol, dove praticamente siamo a 3 minuti da Casa Azzurri, dove stiamo andando con alcuni colleghi per seguire una serata di cabaret divertente. E sì, quindi sì, siamo qui, facciamo base con gli azzurri, perché questo è il cuore del nostro europeo, finché stiamo dentro a giochi, insomma. Ma Dario, che clima si respira? Tu che sei tutti i giorni lì, che cosa senti anche tra i tifosi? Ci sono anche molti tifosi lì che sono a seguire gli europei? Ma guarda, sì, qua diciamo la città non è direttamente implicata negli europei, nel senso che non è sede di partite Montpellier, però lì c'è stata un'accoglienza, sì, c'è un'accoglienza molto calorosa per l'Italia, c'è stata... Insomma, in più di un'occasione c'è la sede appunto Casa Azzurri, c'è il sindaco di Montpellier, ha più volte manifestato anche il piacere di avere la squadra azzurra qui come ospite, quindi c'è questo calore intorno agli azzurri in una città che comunque ha una comunità italiana non molto numerosa ma ben radicata, quindi c'è questo affetto intorno agli azzurri che hanno la possibilità di allenarsi al meglio nel centro sportivo, quindi c'è un'atmosfera positiva anche intorno alla manifestazione in sé per sé. Poi è chiaro, sappiamo che è una manifestazione che è stata sfregiata dagli hooligan, ogni tanto con una buona frequenza c'è qualche allarme bomba, fortunatamente non veritiero, e insomma c'è la voglia di far festa e c'è anche la preoccupazione. Credo che per lungo tempo entreremo negli stadi con questi due sentimenti, sperando che il primo prevalga sempre. Grazie Dario Ricci, grazie Dario dalla Francia, da Montpellier. Intanto au revoir, ciao, au revoir Dario, e lo sentiremo anche nei prossimi giorni. Noi però tra poco ci dobbiamo lasciare, poi ci risentiamo brevemente alle 22. Margherita pronostica un 50-50, dice, tra l'altro c'è anche la possibilità del pareggio nel referendum, ma poi sentirete meglio dopo, ve lo ricordo ancora che c'è lo speciale dopo Effetto Notte. Ci risentiamo alle 22.